Consiglio dei Ministri tutto rinviato alla rivalutazione delle quote Banca Italia, le riforme, la discussione sulla bozza delle riforme e a 25 giorni dal pagamento della seconda rata IMU anche il decreto su questa tassa. I CAF dicono non possiamo aspettare le delibere comunali, faremo i calcoli con le aliquote al 15 novembre. Genova, nuova giornata di caos e cortei, la terza di fila, fermi i lavoratori del trasporto pubblico locale e quelli delle altre municipalizzate di cui si ipotizza la privatizzazione, rischio tensioni per il pomeriggio. In Sardegna la procura di Tempio Pausani apre un'inchiesta sul sistema di allerta e sui piani di risanamento ad Olbia. Sono meno gli sfollati e resta un disperso, problemi di gestione degli aiuti, la protezione civile dice smettete di inviarli. Il caso del ministro Cancellieri continua ad agitare il Partito Democratico. Alcuni deputati renziani tornano a chiedere le dimissioni. Terremoto in provincia di Pavia, molto spavento ma pochi danni, bambini evacuati da alcune scuole. Realizzare l'articolo 9 della Costituzione, oggi gli stati generali della cultura organizzati dal Sole 24 Ore. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Iniziamo, prima di andare alla politica economica del governo, oggi ci dovrebbero essere alcune decisioni in Consiglio dei Ministri che non sono arrivate, partiamo però da alcune dichiarazioni che arrivano dal Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, in un incontro economico organizzato dalla Süddeutsche Zeitung a Berlino. Dice, è scorretto accusare il Consiglio della BCE di agire a vantaggio di uno o più paesi. Il nostro agire si basa su considerazioni economiche e opera nell'interesse di tutti e aggiunge che non vede rischi di inflazione. Sta parlando anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, naturalmente in un altro appuntamento a proposito della situazione economica. Ci verremo tra un attimo, intanto veniamo alla questione dell'IMU, soprattutto del Consiglio dei Ministri, che doveva varare una serie di cose che probabilmente verranno sfilate. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Riunione dell'esecutivo che si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare le vittime della Sardegna e la prima decisione del Consiglio dei Ministri è stata proprio quella di indire per domani il lutto nazionale. Quanto agli altri argomenti, non ci sarà il varo del decreto che abolisce la seconda rata dell'IMU e non sarà approvato neanche il provvedimento sulla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia. Il via libera di entrambi i decreti, a quanto si apprende, è slittato a martedì. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che i due provvedimenti viaggiano di pari passo e dovrebbero essere approvati contestualmente. Si starebbe valutando infatti la possibilità di una norma che possa garantire una parziale copertura dell'abolizione IMU, prima casa e dei terreni agricoli a carico proprio delle risorse recuperate dalla rivalutazione delle quote di Banca Italia. Lo stop della seconda rata dell'IMU varrà intanto anche per i fabbricati rurali, lo ha confermato il ministro per le politiche agricole De Girolamo. La riunione dell'esecutivo non sarà a questo punto breve, il nodo da sciogliere è tutto politico, si tratta di trovare un compromesso sulle risorse. Tutto ciò tratterrà il Presidente del Consiglio Letta a Roma, il Premier era atteso nel pomeriggio a Milano. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Intanto parla anche il commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn con alcune frasi importanti che riguardano l'Italia, la possibilità per il nostro paese di utilizzare la clausola per gli investimenti nella finanziaria dipenderà dalla spending review o altre decisioni che diano spazio di manovra sotto il 3% del deficit. Quindi ora la palla è nel campo dell'Italia ed essenzialmente del suo Parlamento. Sempre a proposito della situazione e in particolare della situazione politica ma anche economica, parla Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, dice quello che l'Italia sta vivendo è un cammino tutt'altro che facile, che va percorso con massima coerenza e fermezza viste le incognite e gli impegni del periodo. Noi veniamo ad una vicenda che sta tra la cronaca, la politica e l'economia ed è la vicenda che riguarda Genova, dove per il terzo giorno di fila si ferma il trasporto pubblico locale e non solo quello in realtà, perché viene ventilata da giorni un'ipotesi di privatizzazione di una serie di municipalizzate e i dipendenti stanno protestando con un rischio di coda di tensioni oggi pomeriggio. Ci spiega tutto Andrea Ferro da Genova, che tra l'altro si trova nel corteo dei lavoratori. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Genova, mi date la linea proprio nel momento in cui il corteo raggiunge il portone di Palazzo Tursi, che è il palazzo municipale. Sono in corso in questo momento una specie di trattativa tra i responsabili dell'ordine pubblico e i rappresentanti sindacali per capire se una delegazione sarà fatta entrare. Dubito che ciò avverrà. questo corteo, 1500 persone, non solo dipendenti di AMT ma anche delle altre aziende municipalizzate, ha sfilato per tutto il centro a partire dalla prima mattinata, trombe, tamburi, cori contro il sindaco Doria e anche striscioni contro Renzi, che ieri ha rinunciato a venire a Genova per un incontro programmato da tempo in vista delle primarie, secondo gli utenti, per non incappare nella protesta in atto, anche se ufficialmente Renzi parla di altri impedimenti organizzativi. C'è tensione per le prossime ore, vi dicevo, vi parlo dal portone di Palazzo Turzi. Alle 16.30 dovrebbe riprendere la seduta che era stata interrotta martedì in seguito allo sfondamento delle porte da parte degli utenti di AMT, con l'assedio al sindaco, il ferimento di alcuni agenti della Polizia Municipale. Questa seduta, ripeto, è stata convocata per le 16.30. In sottofondo, come dicevi da studio Simone, c'è una città che sta vivendo un'altra giornata durissima, e così hanno paralizzato la circolazione per tutta la mattinata, per una città di 600.000 abitanti fatta di quartieri in collina, con una popolazione tra le più anziane d'Italia, senza bus, i disagi sono pesantissimi. Pensiamo ai collegamenti con le scuole, gli ospedali, insomma la vita di molte famiglie è alterata, condizionata, e ormai succede, come dicevi da studio, da 3 giorni. Grazie Andrea Ferro, e torneremo a collegarci con te nel corso della giornata. E sulla vicenda di Genova torneremo tra poco col direttore del Secolo XIX, il quotidiano più importante della città, perché la vicenda fa segnare anche il punto più basso del rapporto tra il sindaco Doria e appunto la città di Genova, e parleremo proprio di questo. Noi adesso però ci spostiamo in Sardegna per sapere com'è la situazione. Ci colleghiamo con Stefano Totoro. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Mentre il Consiglio dei Ministri questa mattina ha proclamato una giornata di lutto nazionale per domani, per commemorare le vittime dell'alluvione, qui la situazione sta leggermente migliorando. A 72 ore dalla catastrofe il numero degli sfollati è sceso a circa 500. Molti sono tornati a dormire nelle proprie abitazioni e fanno i conti con i danni subiti. Intanto la Protezione Civile ha chiesto uno stop agli arrivi degli aiuti perché i centri di raccolta sono ormai stracolmi. Si cerca ancora l'ultimo disperso, l'allevatore scomparso nel Nurese. Questa mattina proprio a Nuoro si sono tenuti i funerali di Luca Tanzi, l'agente di polizia caduto dal ponte quando era a bordo di una fuoristrada. Il ponte ha ceduto e quindi il fuoristrada è caduto, e come quel ponte tante altre infrastrutture che hanno ceduto, che non hanno retto il peso della massa d'acqua, sono diventate oggetto di 2 inchieste della magistratura che indaga per omicidio colposo. L'eco delle polemiche sui ritardi nel dare l'allarme viene smorzata dal capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. Domenica è stato mandato un fax a tutti i comuni, ha detto il prefetto, che in questa situazione ha colto, diciamo, l'occasione anche per lanciare ancora una volta l'allarme. L'Italia cade a pezzi, ha invitato i sindaci a investire il denaro per la messa in sicurezza del territorio. Dunque sentiamo questo passaggio di Gabrielli, poi la linea può tornare allo studio. Investiamo il denaro nella messa in sicurezza del territorio. Il giorno in cui riusciremo forse a ripianare il nostro debito o comunque a renderlo meno insopportabile, non dovremmo avere una sorta di cadavere sano, cioè nel senso che magari abbiamo i conti a posto ma il paese è caduto a pezzi, perché il paese sta letteralmente cadendo a pezzi. Allora se non si mette mano al territorio, al suo assetto idrogeologico, rischiamo veramente di avere magari fra qualche anno, non so, qualche conto a posto ma il territorio completamente distrutto. Dico un'altra cosa però ai miei amici sindaci, che anche loro devono fare una scelta di campo, perché nel momento in cui il governo sta liberando 1 miliardo, che è poca cosa, ma è sempre 1 miliardo, facciano una scelta coraggiosa e dicano benissimo, quel miliardo lo destiniamo solo al dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza delle scuole. Sarebbe un bel segnale. Così dunque Gabrielli, ringraziamo Stefano Totoro, e però rimaniamo ad Olbia con l'inviato del Sole 24 Ore, Mariano Maugeri. Già Stefano Totoro ci accennava che la Protezione Civile ha chiesto per il momento lo stop agli aiuti, perché da questo punto di vista, anche dal punto di vista dell'organizzazione post emergenza, sta emergendo, Mariano, un po' di confusione. Buongiorno. Sì, buongiorno. Non si capisce chi debba fare che cosa. confusione, disorientamento. Adesso ci sono pochi volontari e gli uomini delle forze dell'ordine, oltre 500, però coordinarli è impresa improba, molto difficile, anche perché il nucleo organizzativo, come dire, direttivo è un po', diciamo, in grande difficoltà. C'è la prefettura, c'è l'esercito, c'è la polizia municipale, c'è la protezione civile, ognuno ha voce in capitolo, e mettere d'accordo questo nucleo così variegato di comando è praticamente, non dico impossibile, ma quasi. Grazie a Mariano Maugeri, inviato del Sole 24 Ore ad Olbia. Allora, si parlava del dissesto idrogeologico, sentiamo Vincenzo Tiana, presidente di Legambiente Sardegna, lo ha intervistato Katia Caramelli. È vero che c'è stata una pioggia eccezionale al di fuori delle medie degli ultimi anni in quelle zone, però le piogge hanno provocato una grande devastazione perché c'era stato un uso dissennato del territorio, cioè la città di Olbia è una grande città che in 30 anni da 10.000 abitanti è passata a 60.000 abitanti, con quartieri completamente abusivi che poi sono stati condonati con dei piani di risanamento, ma quartieri interi, quartieri con migliaia di persone, quindi con una programmazione del territorio sicuramente non attenta a quello che è l'attenzione ai fiumi, agli stagni. È una città vicina al mare che è cresciuta in maniera impetuosa. Come si può affrontare adesso la situazione? Intanto noi diciamo deve esserci un cambio di rotta nell'occupazione del territorio, quindi bisogna mettere mano al restauro del paesaggistico, al riassetto idrogeologico, al ripristino di tutto il sistema idrografico. E anche a questo è dedicato il commento di oggi di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Può sembrare strano, ma un filo sottile unisce in modo imprevedibile il dramma della Sardegna, il dramma dell'incuria e dell'abbandono del territorio, con gli incidenti di Roma, il centro della città sconvolto dai manifestanti contrari all'alta velocità, la sede del Partito Democratico assaltata. Il filo è il lento degradarsi della convivenza civile nella perenne ripetizione del peggio. Ogni autunno le alluvioni ci ricordano che il paese è stato abbandonato da una politica indifferente, ostile ai diritti del cittadino. E ogni manifestazione di dissenso tende a risolversi in un'esplosione di intolleranza contro chi la pensa in altro modo. Il tutto in una cornice di inerzia, che è forse la vera causa della depressione diffusa. A ogni tragedia del territorio si ripetono le stesse denunce senza che nulla cambi. A ogni incidente di piazza si misura il progressivo inquinamento del discorso pubblico. Un giorno forse avremo l'alta velocità, ma 30 anni dopo che era stata concepita. Due facce della stessa medaglia, la medaglia del declino. Così Stefano Folli. Noi adesso passiamo a parlare di notizie degli ultimi minuti, che sono quelle delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso giugno Silvio Berlusconi è stato condannato a 7 anni nel processo Ruby. Emergono naturalmente, come sempre in questi casi, dettagli e notizie interessanti su quello che scrivono i giudici. Ce li racconta Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno, ciao. Sì. Ciao Simone, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Silvio Berlusconi, il regista del Bunga Bunga e consapevole della minore età di Ruby, con cui in almeno 2 occasioni avrebbe avuto rapporti sessuali. I giudici di Milano considerano provato che il cavaliere avrebbe fatto sesso con l'allora 17enne marocchina, inserita stabilmente, si legge nelle motivazioni della sentenza, nel sistema prostitutivo di Arcore. 7 anni, come ricordavi, è stata la condanna per l'ex premier per prostituzione minorile e concussione, oltre che con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E prova di questi rapporti sessuali con una minorenne per la Corte è sia la linea, il silenzio avuto dalla stessa Ruby durante le udienze, perché pagata dall'imputato, scrivono i giudici, e anche il fatto che il cavaliere le avrebbe proposto di un appartamento nel complesso dell'Olgettina, di via dell'Olgettina, ma che a quel punto la mancanza di documenti di età, di documenti di identità della ragazza, e quindi il venir fuori della sua età avrebbe reso impossibile intestarle questo appartamento. Per quanto riguarda la concussione, ossia la famosa telefonata che Berlusconi fece nella notte del fermo di Ruby in questura, per i giudici lui intervenne sulla libertà di autodeterminazione del capo gabinetto della questura e lo fece per tutelare se stesso, scrivono, cioè per evitare che Ruby svelasse la sua minore età e svelasse l'attività prostitutiva che era in atto all'interno delle mura di Ascore. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra. Passiamo ad un'altra vicenda, la vicenda della Cancellieri, che ancora agita il Partito Democratico. Alcuni deputati renziani insistono questa mattina, si deve dimettere. Sentiamo la nostra Alessandra Schepisi, che cosa ha da raccontarci brevemente. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Anna Maria Cancellieri esce indenne dalla prova della Camera, ma la fiducia non placa le polemiche. Tra l'altro nuove ombre si addensano sul suo caso. Restano i malumori nel PD, che come sappiamo si è adeguato all'appello di Letta respingendo la mozione di sfiducia dei 5 Stelle, ma Renzi continua ad incalzare il Premier e torna a bollare come errore la decisione di Letta di metterci la faccia, di legare a doppio filo il destino del proprio governo a quello della ministra. Se fossi stato segretario del PD sulla Cancellieri avrei dato l'indicazione di votare la sfiducia, ha detto Renzi. Insomma, il nuovo PD non l'avrebbe salvata, ma intanto anche per il ministro non c'è pace, visto che pochi minuti dopo il voto si è aperto un altro fronte che potrebbe riacutizzare le tensioni. Dal verbale dell'interrogatorio di Salvatore Ligresti, avvenuto il 15 dicembre 2012, ma reso noto solo ieri, emerge infatti un particolare che la chiama nuovamente in causa. Salvatore Ligresti sostiene infatti di aver segnalato a Berlusconi il desiderio della Cancellieri di non essere spostata da parte quando si trovava nella città emiliana come commissario prefettizio. Accuse senza fondamento e surreali le ha bollate immediatamente la Cancellieri, che parla di accanimento senza fine. A te, Simone. Grazie ad Alessandra Schepisi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Nel Consiglio dei Ministri tutto rinviato, anche il decreto sulla seconda rata IMU. Genova, nuova giornata di caos e cortei, la terza di fila, fermi i lavoratori del trasporto pubblico locale contro l'ipotesi di privatizzazione. In Sardegna la procura di Tempio Pausani apre un'inchiesta sul sistema di allerte e sui piani di risanamento di Olbia. Sono meno gli sfollati e resta un disperso. Le motivazioni della sentenza di condanna di Berlusconi sul caso Ruby: sapeva che era minorenne, scrivono i giudici. Terremoto in provincia di Pavia, molto spavento ma pochi danni, bambini evacuati da alcune scuole. E noi in apertura di questa seconda parte parliamo degli stati generali della cultura. Oggi si terrà la seconda edizione, organizzata in collaborazione con Fondazione Roma dal Sole 24 Ore, a seguito del grande consenso riscosso dal Manifesto della Cultura del 2012. Un evento che vuole dare continuità al dibattito, si focalizzerà sul ruolo delle imprese nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con l'idea, e questo è il titolo, di realizzare l'articolo 9 della Costituzione, quello che recita che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Sentiamo l'editoriale del direttore di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Fatti non parole, la seconda edizione degli Stati Generali della Cultura del Sole 24 Ore esige dal Presidente del Consiglio Ricoletta le risposte che il capitale dimenticato del Paese attende da troppo tempo. Ne abbiamo fatto una bandiera e una scelta di campo. Per noi la cultura è arte, musei, impresa creativa, un marchio storico di valore assoluto che identifica il Made in Italy ed è riconosciuto nel mondo, ma è anche ricerca scientifica e tecnica, innovazione, tutela del paesaggio, in una parola il futuro. Per questo riteniamo che la cultura, per come la intendiamo noi, debba essere collocata al centro della politica economica di sviluppo del paese. Non esistono alternative. Se è vero, come è vero, che cultura e scienza parlano a testa e cuore degli italiani, oggi a Milano, nella sede del Sole 24 Ore, il Presidente del Consiglio Letta ha una straordinaria opportunità per farlo. Annunci che rimuove i vincoli che bloccano la crescita privata, un capitali privati, di istituzioni primarie milanesi come la Scala e il Piccolo Teatro. Dimostri che investire sul Made in Italy e sul capitale dimenticato è possibile, tagliando la spesa improduttiva e finanziando il talento e la creatività dei giovani italiani. Noi faremo il nostro, insieme con una banca primaria, finanzieremo le start-up che riteniamo più promettenti, ne agevoleremo il percorso formativo e offriremo gli strumenti utili per misurarsi e vincere sul mercato secondo le regole del merito. Fatti, non parole, perché a nessuno, a partire da noi, può essere ancora consentito di deludere giovani e meno giovani di talento. E altri dettagli li trovate su www.statigeneralidellacultura.ilsole24ore.com. Vi ricordo anche che oggi è l'undicesima giornata nazionale della ricerca e innovazione di Confindustria. Questa sera ci sarà una puntata speciale dedicata di Porta a Porta con ospite il presidente degli industriali Giorgio Squinzi. Passiamo adesso al terremoto che ha colpito la provincia di Pavia. A quanto pare nulla di grave, ma lo chiediamo ad Anna Corbi, che è sindaco di Godiasco Salice Terme, provincia di Pavia, che è il luogo dell'epicentro. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Come sono le cose? Le cose adesso sono sotto controllo, ma quando si è avuta la seconda scossa in particolare c'è stato un grande spavento, come succede sempre di fronte ad eventi così drammatici, insomma. Ci sono danni? Danni li accerteremo nel pomeriggio, perché abbiamo già chiesto ai vigili del fuoco di controllare gli edifici scolastici. Così. Devo dire che non c'è stato nell'evacuazione dell'edificio scolastico, devo dire che i ragazzi hanno dato prova di grandissima disciplina e grandissimo ordine, e vabbè, spaventati, piangenti, ma insomma incolumi. Tutti incolumi, ecco. Grazie. Grazie, grazie Anna Corbi, sindaco di Godiasco Salice Terme, provincia di Pavia, dove, come avete sentito, c'è stato un terremoto 3.8 la magnitudo. E saluto adesso invece Umberto La Rocca, direttore del Secolo XIX. Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il principale quotidiano di Genova, e ne parliamo perché oggi siamo al terzo giorno di sciopero selvaggio dei dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico locale. In realtà non sono solamente loro, ma sono anche gli altri, quelli delle altre municipalizzate, di fronte ad un'ipotesi di privatizzazione per ora in realtà solamente ventilata. Insomma, oggi pomeriggio riprenderà la discussione in consiglio comunale. E però la vogliamo interpellare su un altro argomento, perché lo stesso sindaco Doria, che tra l'altro ieri è stato ospite di Focus Economia, anzi vi consiglio, se volete andare ad approfondire la cosa, di cercarvi il podcast, ha detto che si sente, per così dire, solo, insomma, è come se la città l'avesse abbandonato. Che cosa è successo? Perché la sua elezione, no, fu accolta con grande entusiasmo da un pezzo della città, anche da un pezzo del paese. Che cosa sta succedendo, La Rocca? Ma a mio modo di vedere ha ragione il sindaco, perché chi ha invaso in quella maniera così impropria e con una cosa che si può definire facilmente una ferita istituzionale, che ha invaso il Consiglio Comunale strattonandolo, spintonandolo, in realtà è la base che l'ho eletto, o parte della base che l'ho eletto. Quello che è successo è che innanzitutto che un modello sociale sta definitivamente tramontando qui in Liguria, ed è un modello sociale che prevedeva di dare un po', di dare molto a pochi e un po' a tutti. Mi spiego meglio: essendo finiti i soldi pubblici che noi abbiamo sul giornale calcolato in 30 anni, AMT ha ricevuto, oltre ai finanziamenti, 600 milioni di euro straordinari per ripianare i bilanci. Questo non è più possibile. E a questo punto la classe politica non riesce più a gestire la situazione, a gestire una situazione che era basata su un modello completamente diverso. Il secondo problema è che la strategia politica invece di includere tutto e tutti, e quindi di dar vita a maggioranze dove il sindaco la pensa in un modo e il principale azionista, diciamo, il principale partito della maggioranza, cioè il Partito Democratico, la pensa in modo diametralmente opposto, e sulle privatizzazioni e sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture, intendo dire, e così via, è un modello che dimostra di non reggere, perché il consenso è vasto in apparenza e poi in realtà non esiste nella pratica, alla prova del fuoco. Grazie direttore, ti ringrazio per il tuo intervento. Umberto La Rocca, direttore del Secolo XIX. Vedremo poi che cosa succederà oggi, perché insomma, a quanto pare la tensione, perché rinizia la discussione sulla delibera oggi pomeriggio, no direttore? Sì, rinizia a porte chiuse, nel senso che, a differenza di quel che è successo tre giorni fa il Consiglio Comunale ha deciso di chiudere le porte di Tursi, della sede dell'assemblea, e questo, va detto, è necessario, ma è un bruttissimo segnale, perché quando la politica è costretta a serragliarsi significa che non ha più la credibilità e l'autorevolezza, e che c'è di fatto, come l'abbiamo descritto sul giornale, un desolante vuoto di potere. Grazie direttore, buona giornata e buon lavoro naturalmente. Allora, noi abbiamo aperto questa parte di Effetto Giorno parlando di cultura, degli stati generali della cultura che ci sono oggi a Milano, qua nella sede del Sole 24 Ore. Tra l'altro oggi c'è anche un altro appuntamento culturale importante a Milano, si tratta di Book City, parte oggi, via. Quattro giornate da oggi a domenica e oltre 600 eventi in più sedi e più poli tematici rispetto all'edizione scorsa. Stiamo parlando di Book City 2013, la manifestazione promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Milano, dedicata al libro e alla lettura, che torna dopo lo straordinario successo di pubblico dello scorso anno. L'assessore alla cultura Filippo Del Corno. Milano non è solo la capitale dell'editoria, ma è anche la capitale della lettura. I dati statistici dicono che proprio a Milano si comprano, si acquistano e si leggono il maggior numero di libri, appunto, dal punto di vista statistico. Noi con Book City vogliamo estendere il più possibile questo invito alla lettura in maniera tale che il piacere della lettura sia anche un piacere condiviso. Book City Milano è un progetto collettivo che ha il suo cuore nel Castello Sforzesco, dove per l'occasione verrà esposto uno dei suoi tesori più preziosi, il Codice Trivulziano, manoscritto di Leonardo da Vinci, che sarà visibile nella Sala del Tesoro. Tante le iniziative, come la maratona di lettura nel metrò, le vie parlanti, i racconti di cronaca nera strillati dalle edicole, ma soprattutto diversi progetti speciali come quello per le scuole, che vede coinvolte 940 classi di 200 scuole proponendo laboratori di editoria e attività di redazione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Nel Consiglio dei Ministri tutto rinviato, a partire dal decreto sulla seconda rata IMU, ma salta anche la rivalutazione delle quote Bankitalia e la discussione sulla bozza sulle riforme. A Genova è una nuova giornata di caos e cortei, la terza di fila, sono fermi i lavoratori del trasporto pubblico locale contro l'ipotesi di privatizzazione. In Italia è tecnicamente fallito il 40% delle aziende del settore, dice il sottosegretario D'Angelis. In Sardegna la procura di Tempio Pausani apre un'inchiesta sul sistema di allerta e sui piani di risanamento di Olbia. Sono meno gli sfollati, resta un disperso. La Commissione Bilancio ha appena approvato un emendamento per gli aiuti alla Sardegna. Le motivazioni della sentenza di condanna di Berlusconi sul caso Ruby. Sapeva che era minorenne, scrivono i giudici. E adesso vogliamo tornare ad occuparci del caso Cancellieri. Lo sapete, ieri il ministro è stata bocciata la mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Cancellieri e questo ha provocato un bel po' di lacerazioni ulteriori all'interno del Partito Democratico. Io saluto Sandra Zampa, che è deputata del Partito Democratico, autrice tra l'altro, e ne parleremo, di un libro appena uscito, I tre giorni che sconvolsero il PD. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, grazie, buongiorno agli ascoltatori. Da questa vicenda Cancellieri mi sembra che ne uscite a pezzi quasi peggio di quei tre giorni che racconta lei, quando insomma fu silurato Prodi che si ipotizzava essere il prossimo Presidente della Repubblica. Beh, guardi, non so se siamo peggio, se ne usciamo peggio, di certo però c'è un nesso tra le due cose, perché quello che è accaduto in quei giorni ha determinato sia dentro al partito un clima e anche dentro al gruppo, un clima certamente scarsamente definibile da comunità e tantomeno da comunità coesa, come invece un gruppo parlamentare dovrebbe essere, e poi anche credo abbia messo in luce una nostra incapacità di avere davvero un profilo identitario, certo nelle differenze, ma dove le differenze sono sfumature. In questo caso però il paradosso è che tutti dicevano di volere che la Cancellieri facesse, la ministro Cancellieri facesse un passo indietro. Sì, Zampa, e tutti volevano che Prodi diventasse il Presidente della Repubblica nella riunione, certo, del giorno prima. Certo, tutti in piedi acclamavano Prodi Presidente della Repubblica, però dopo hanno detto che forse se uno avesse guardato bene le ultime file non tutti si erano alzati in piedi, quindi sa, forse anche qui tutti dicevano di volere, ma non tutti nel loro cuore lo volevano. No, adesso questa è una battuta. Diciamo a parole, tutti dicevano di volere, come è noto, Civati aveva annunciato ed è stato secondo me volutamente frainteso il senso delle sue parole. Lui voleva presentare una mozione all'assemblea del gruppo, cioè ok, siccome diciamo di volere questo, siamo e diciamo al tempo stesso che non possiamo votare la mozione del Movimento 5 Stelle, vorrei spiegare agli ascoltatori che non c'è solo un problema di opportunità politica, perché spesso sa l'obiezione che viene fatta è ma insomma perché, come dire, che cosa è che ve lo impedisce? Anche il testo di quella mozione era un testo molto non condivisibile, scolare, molto, diciamo non condivisibile, esatto, voi. Quindi però se si è coerenti con le parole si passa ai fatti. Civati aveva proposto all'assemblea del gruppo di uscire da lì avendo firmato una mozione insieme con la quale allora noi dicevamo questo. Le cose sono andate come è noto con Renzi a sua volta ha detto più e più volte che secondo lui era opportuno che la ministra Cancellieri facesse un passo indietro. Cooper lo ha detto a sua volta che anche lui riteneva che questo fosse la buona strada. Ci siamo ritrovati con il Presidente del Consiglio che ci ha detto sostanzialmente: mi assumo io la responsabilità e vi dico che voi non voterete, noi ci troveremo non a votare una mozione di sfiducia individuale a un ministro, ma voteremo così sfiducia al governo. Al governo. Senti una cosa, Zampa, andando al nodo politico della questione, io so che magari in questo modo la metto un po' brutalmente, però vorrei anche una risposta altrettanto netta. Non è che siete ostaggio del Presidente della Repubblica? Come partito, dico. Bisognerebbe immaginare davvero che è stato assolutamente da lì che è partito la richiesta per noi di non votare o di votare, e questo non è quello che ci è stato detto. Il Presidente del Consiglio ha detto che noi dovevamo votare la fiducia o la sfiducia al suo governo. Prima di parlare del Presidente della Repubblica, ovviamente io ho la necessità, come dire, dovrei essere messa di fronte al fatto che sappiamo per certo che è da lì che è arrivata questa richiesta. Non si capirebbe poi perché in realtà, vede, il problema oggi, ieri sera mia amica mi ha mandato un sms che da solo diceva tutto, e cioè che alla fine la fiducia è stato peggio che la sfiducia come risultato. Perché probabilmente il governo in realtà ne esce più debole. Molto brevemente, Zampa, perché abbiamo proprio pochissimo tempo. Sul suo libro, allora, ci dice chi sono questi 101? No, non lo dico chi sono i 101, nel libro però faccio un nome di 101, ne ho scelto uno perché si tratta di una persona che ha fatto, è Ugo Sposetti, ex tesoriere dei DS, perché so che ha fatto talmente tante telefonate per organizzare il boicottaggio dell'elezione di Prodi che addirittura due persone, che poi me lo hanno testimoniato, gli hanno telefonato e gli hanno detto, essendo lui un dalemiano: Ugo, smettila, perché poi diranno che è colpa di D'Alema. E Ugo non so se l'ha smessa. Di certo però Ugo non era l'unico telefonista, perché quella mattina sono partite molte telefonate, molte. E in realtà sono dei gruppi organizzati. Allora, la ringrazio, grazie Sandra Zampa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Nel Consiglio dei Ministri tutto rinviato, anche il decreto sulla seconda rata IMU. Genova, nuova giornata di caos e cortei, Doria convoca i sindacati del trasporto pubblico locale. In Sardegna la procura di Tempio Pausani apre un'inchiesta sul sistema di allerta e sui piani di risanamento di Olbia. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero.